dove ho messo il cuore. Forse non l'ho mai avuto, forse l'ho scordato dentro ad una 24 ore. Ma non mi ricordo dove. La gente aspetta i miracoli, a braccia aperte sì come i tentacoli. Spera che risolva tutto il Signore, ma non è così. No, no, no, no, questi finti sorrisi mi mandano in crisi. Ah, ah, ah, ah, nemmeno tu credi a quello che dici, lo so. La strada del successo fa vincere soldi, fa perdere amici. Oh no, bambini e banditi ai miei show. Calypso, fuori ragazzo nei vicoli, 100 sirene negli angoli, nessuno cercherà del tuo cuore. Calypso, cerchi per strada miracoli, gli altri ti dicono salami, ora ricordi dov'è il tuo cuore. Ora ricorda dov'è il tuo cuore. Una canzone, così nessuno mi trova qui. Mi dicevano è solo rumore, non ascolto quella roba lì. Frate copriti che fuori piove, occasioni qui ce ne son poche. Mi parli di quello che hai fatto, nulla di più falso della tua faccia da poker. Ho provato ad andare lontano per guardare il mondo con occhi diversi. Che possiamo scappare da tutto, sì, tranne che da noi stessi. Giorni vuoti con tavole e ore, si ricordano solo il migliore. Basta guadagnare per aver ragione, chissà dove ho lasciato il mio cuore. Calypso, fuori ragazzo nei vicoli, cento sirene negli angoli, nessuno cercherà del tuo cuore. Calypso, cerchi per strada miracoli, gli altri ti dicono salami, ora ricordi dov'è il tuo cuore. Sulle strade di Napoli corro, corro, corro, dentro vicoli scomodi corro, corro, corro. Ora ricorda dov'è il tuo cuore.